j'aimerais les faire pendre. Mais on sait pas parce qu'ils portent un flingue qu'ils peuvent penser mettre à la membre. La vérité est masquée, à savoir ce qui s'est passé. Le mystère des GAV, un blème qui ne pourra être démasqué. J'ai dit steak à toutes mes gardes à vue. Ils m'en ont fait baver, les enculés, mais ils ont pas tout vu. La France c'est une gare que l'on s'est fait trahir. Le système, voilà ce qui nous pousse à les haïr. La haine, c'est ce qui rend nos propos vulgaires. On nique la France, sous une tendance de musique populaire. On est d'accord et on se moque des répressions. On se fout de la République et de la liberté d'expression. Faudrait changer de loi et pouvoir voir bien quoi l'Élysée. Des Arabes et des Noirs au pouvoir. La France c'est une gare et on s'est fait trahir. Le système, voilà ce qui nous pousse à les haïr. La haine, c'est ce qui rend nos propos vulgaires. On nique la France. C'est comme ça que ça se sait pas. Contrôle musclé, la bague passe, il te manque tes pieds bas. Si je les ai pas, là ça commence par insulter ta mère, ta soeur, tes frères, ça dégénère et tu te fais péta. D'où Nissan, la délinquance en moi, la haine en moi. Donc s'il faut insulter leur mère, pour ça y ait confiance en moi. Dans la rue, règlement de compte entre Cyril et Mamadou. La police est intervenue et a interpellé l'agresseur. Dans la rue, règlement de compte entre Badou et Mamadou. La police a tout vu et est restée en tant que spectateur. Donc est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent, je crois pas. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. They must have paid her a nice price. She's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a pill out the watch with just Ciao a tutte, ciao a tutti, bentrovati e bentrovate e bentrovati. Vorremmo aprire questa trasmissione con un contributo di sintesi sulla situazione circa la violenza sulle donne dopo il 25 novembre, tanto per chiudere dei giorni che sono stati per noi importanti. E questo contributo è stato fatto dalle Dumbless, che è un collettivo femminista che potete trovare sul blog dumbless.noblogs.org e che in effetti è riferito al loro contesto territoriale, perché sono friulane, sono di Udine, ma vale anche per tutti gli altri contesti. E ci dice: la lotta, anzi il contrasto tra virgolette alla violenza di genere, è stato normato in modo osceno, questo lo abbiamo già detto. Ora alcune considerazioni sui protocolli che le istituzioni, quelle di alto livello gerarchico, non potendo normare direttamente, si sentono comunque di formulare per non essere da meno e dimostrare che hanno acquisito la sensibilità giusta per intervenire nel merito. E infatti loro cominciano a parlare del fatto che tutte ormai si sentono in dovere, tutte le istituzioni, associazioni di qualsiasi livello gerarchico, di qualsiasi tipo, si sentono in dovere di entrare nel merito del femminicidio. E dice a Udine: assistiamo a un florilegio protocollare, che nessuno rimanga fuori, anzi, c'è il comune che sottoscrive il protocollo lanciato dalla provincia con la prefettura, la procura, il tribunale, l'ufficio scolastico e la questura, il comando provinciale dei carabinieri, il centro regionale di orientamento, la direzione delle ASL 4, la direzione del pronto soccorso, l'ordine degli avvocati e poi sempre il comune col suo servizio Zero Tolerance, che ne sigla un altro con una cooperativa sociale e con la tripletta CGL, CISL e UIL. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, ma pare che ci siano proprio tutti, e i preti, se mancano, ci sono indirettamente, perché quando c'è del buonismo istituzionale pure loro sostengono la causa. Allora, prima ci lamentavamo che la violenza contro le donne nessuna se la filava, ora se la filano tutti. Sì, non possiamo farne a meno, perché una, come si dice, falsa coscienza agita da chi ha per suo mandato la repressione, le forze dell'ordine, da chi deve trovare argomenti per sopravvivere politicamente, come la provincia, da chi non si fa scrupolo ad usare argomenti come questi per aprirsi fette di mercato. E poi, a proposito delle fette di mercato, vi leggeremo una notizia molto interessante che non saprei se dire che è una cosa ridicola o una cosa disastrosa, che riguarda un intimo antistupro. Dopo ve lo racconto. Allora, il contributo del Dumbles continua. E di chi non si fa scrupolo appunto ad usare argomenti come questi per aprirsi altre fette di mercato. E queste sono una vasta area di cooperative che si propongono come professioniste della solidarietà istituzionale, buttandosi a capofitto nella vita di donne maltrattate e picchiate, come a suo tempo hanno fatto con le persone psichiatrizzate, con i migranti, con le carcerate, e poi adesso sono in arrivo nutriti fondi sociali europei. E poi c'è il comune di Udine, le cui contraddizioni non abbiamo mancato di evidenziare nella manifestazione di sabato. Il comune, con le sue ordinanze sul decoro urbano, contro l'accattonaggio, contro la gestione di spazi sociali che non siano concessione in cambio di simpatie politiche, altrimenti pure i vigili ti scatenano contro. Abbiamo tante volte denunciato quanto donne e violenza sia diventato un brand per vendere i più svariati prodotti. In questo 25 novembre abbiamo l'impressione che sia diventato anche un orrendo brand istituzionale, con lancio di protocolli nei quali se le suonano e se le cantano, pure con il coro di CGL, CISL e UIL. Non perdiamo tempo a dettagliare le responsabilità sindacali nell'avere svenduto progressivamente le lavoratrici e i lavoratori, nell'aver determinato il ritorno a casa di molte donne la progressiva miseria. E non è la cortina fumogena rossa di oggi a farcelo dimenticare. Come i nodi che vengono al pettine, anche le contraddizioni si evidenziano, e tutte queste entità prima o poi te le trovi contro, fisicamente o ideologicamente, e non si potranno nascondere dietro il fiocchetto rosso appuntato sul bavero: guarda Letta e poi muori. E sì, perché in fondo all'articolo mettono una fotografia di Letta con il fiocchetto rosso, perché anche Letta aveva il fiocchetto rosso contro la violenza sulle donne sul bavero. Thank you. Questa società non si smentisce mai, è proprio per questo che dobbiamo tenere la guardia altissima. Un esempio per tutti sul mercato tra virgolette della violenza sulle donne, no? Perché la società neoliberista, quella capitalista neoliberista in particolare, si riesce a mercificare tutto, ogni aspetto della vita e anche le cose più terribili. E infatti questa è la notizia di cui vi stavo dicendo prima. È stato messo sul mercato un intimo antistupro. Ecco gli slip indistruttibili, possono essere tolti solo da chi li indossa. Praticamente una nuova cintura di castità, sarebbe da piangere se non venisse da ridere, sarebbe da ridere se non venisse da piangere, no? È un articolo che è comparso sul Messaggero il 12 novembre. Martedì 12 novembre ci dice: un intimo antistupro come protezione per le donne, potenziali vittime di abusi sessuali. E questa è l'idea che ha lanciato una nuova linea di biancheria che utilizza un moderno tessuto indistruttibile. La ditta non la dice, della ditta non diciamo il nome, ci mancherebbe solo che le facessimo propaganda. A differenza dell'intimo che rilascia una scarica elettrica all'aggressore, perché c'è anche questo, questo qui invece blocca le violenze attraverso una cinghia posizionata sugli slip, a cui è applicata una chiusura che solo la donna che indossa l'intimo può aprire. La linea di indumenti non è ancora realizzata del tutto e per questo è stata avviata una campagna di raccolta fondi. Udite, udite. Fino ad ora sono stati raccolti $37,000. La ditta dice che non pretende di risolvere definitivamente il problema della violenza sulle donne, ma no. Le fondatrici del marchio, che sono due donne, ne sono consapevoli, ma difendono il loro operato. Fino a quando non si giungerà a una soluzione definitiva, dice l'articolo, le donne potranno essere più serene grazie alla nuova linea di intimo antistupro. Non ho parole. Quindi con queste premesse la prima parte della nostra trasmissione di oggi è sul 26 dopo il 25. Che cosa vuol dire il 26 dopo il 25? Cioè la necessità di lottare 365 giorni all'anno e quindi il 25, questo simulacro e questa giornata non deve rimanere tale, ma anzi quello che noi faremo è proprio lottare 365 giorni all'anno, come abbiamo sempre cercato di fare. E infatti l'abbiamo intitolata il 26 dopo il 25 perché il 26 la coordinamenta fatto una cosa che da tanto tempo stiamo cercando di portare avanti e che vorremmo continuare. Cioè la coordinamento è andata a parlare, è stata invitata, ci siamo incontrate con le studentesse del Vittoria Colonna Occupato. Vittoria Colonna Occupato è un liceo che sta in via dell'Arco del Monte al numero 99, proprio vicino a dove abbiamo fatto l'azione per il 25 novembre al Ministero di Giustizia contro il concetto di legalità e di norma, per togliersi di dosso, per toglierci di dosso tutta questa normalizzazione della nostra vita. E proprio con le studentesse di questa scuola e poi il giorno dopo, il 26, abbiamo avuto un incontro. La scuola rappresenta per noi da sempre un ambito molto importante, perché è uno, già quando abbiamo fatto anni fa l'opuscolo, il mini opuscolo nostro, che voleva essere proprio uno strumento contro la violenza sulle donne, abbiamo individuato nella scuola uno degli ambiti in cui la violenza istituzionale agisce e perpetua la divisione sessuata, prepara le donne a quello, al ruolo che la società vuole per loro, ed è uno degli, è catena di trasmissione chiaramente dei valori dominanti, quindi non solo dei valori dominanti in generale, ma anche della divisione sessuata della società. Noi riteniamo che i cambiamenti culturali, cioè quando una dice ci vorrebbe un cambiamento culturale contro la violenza sulle donne, allora il cambiamento culturale prima di tutto è il frutto sempre di un cambiamento del modello socio-economico e non viceversa. Non è che il modello culturale si cambia così dall'oggi al domani perché una decide che le cose buone devono essere fatte in un certo modo, o comunque propaganda delle cose. Altrimenti uno direbbe che non si devono fare guerre, propaganderebbe il pensiero che non si devono fare guerre e le guerre non si fanno. E invece no, perché le guerre si fanno per ben altri motivi, e ci sono sempre meccanismi economico-politici che scatenano determinate cose, non certamente impostazioni culturali che ne sono la conseguenza. Però allo stesso tempo siamo convinte che i meccanismi e lo scardinamento dei ruoli deve avvenire anche parlando e proprio smascherando questi meccanismi nei luoghi in cui questi meccanismi si perpetuano. Per questo la scuola è un ambito particolarmente importante. E poi ci interessava moltissimo anche il rapporto generazionale che aveva, intergenerazionale, che avevamo già cominciato a diciamo coltivare quando abbiamo fatto l'incontro nazionale memoria collettiva, memoria femminista. Ci sembrava molto importante parlare del femminismo, fra le altre cose, che viene percepito soprattutto come dalle giovani generazioni come qualcosa di superato, stantio o comunque inutile, perché magari ci sono le ragazze che per il solo motivo che possono gestirsi la serata e fare tardi, o avere cambiare ragazzo, avere la pillola, prendere la pillola, ritengono di avere conquistato la libertà, no? Mentre i meccanismi di oppressione patriarcale sono strutturali e sono ben altro. We'll be right back. Proprio a proposito di approccio alla violenza di genere all'interno della scuola, e per avere un'idea di come si potrebbe affrontare in maniera diversa la problematica di genere, o comunque i rapporti anche conflittuali di genere che si scatenano all'interno della scuola, mi piace fare riferimento e leggervi dei pezzi di un intervento che ha fatto Nicoletta Poidimani al nostro incontro nazionale sulla violenza contro le donne, che abbiamo fatto nel 2012, no? E che si intitola Un passo avanti dalla parte delle donne che reagiscono alla violenza, perché lei in effetti racconta una sua esperienza personale. Dice: faccio riferimento alla mia esperienza personale per avvicinarmi al cuore della questione. Anni fa sono stata chiamata da un amico, insegnante in una scuola superiore, per intervenire nel caso di una classe in cui le ragazze a turno erano letteralmente vessate da un compagno con gravi disagi familiari, particolarmente aggressivo e molesto nei loro confronti. Sono stati sufficienti due incontri perché queste ragazze elaborassero degli strumenti per risolvere la questione. Dapprima abbiamo ragionato molto sull'idea di libertà e di privazione della libertà che ciascuna di loro aveva, evitando di focalizzarci sul singolo caso del compagno molesto, ma ampliando l'analisi alla famiglia, alla scuola, alla cerchia di amici e amiche e soprattutto alla loro libertà di movimento. Nell'intervallo tra i due incontri le ragazze hanno poi preparato dei disegni in cui rappresentavano se stesse libere. Li abbiamo commentati tutte insieme, cercando di cogliere quali strumenti ciascuna di loro avesse utilizzato per rappresentare la propria libertà, ad esempio le ali, e come si potessero tradurre in strumenti quotidiani a loro disposizione. Si è poi ragionato su cosa sia concretamente la costruzione sociale della debolezza, dunque della non libertà femminile, come ad esempio un certo uso della voce, una certa postura, e su cosa per contro veicoli l'idea di forza delle donne. Per concludere, ho fatto una dimostrazione di alcune facili tecniche di autodifesa per liberarsi dalle prese, invitando tutte a provarle insieme per poi riflettere sulla loro efficacia anche psicologica. L'esito di questo percorso è stato che le ragazze hanno creato fra di loro un legame solidale che prima non esisteva e che le ha portate a reagire collettivamente nel momento in cui il compagno ha di nuovo provato ad assumere un atteggiamento di sopraffazione. Da quel momento non si sono più manifestati episodi simili e lo stesso studente ha completamente cambiato il proprio atteggiamento in classe. And the good Lord lift me up and got me out of my days. He got his hand on my shoulder, guiding me in every way. Oh Lord, I know in every way. He got me in his hand, and the Lord keep guiding me in everything at his command. Oh Lord, yeah, yeah. E poi continua: senza entrare ulteriormente nei particolari di questo intervento, vorrei poi rilevare però alcuni aspetti. Un caso come questo viene generalmente etichettato come bullismo, termine assai vago e generico che porta ad agire spesso con autoritarismo e repressione sull'individuo accusato di essere il bullo, anziché sull'intero contesto in cui si manifestano i suoi comportamenti. La mia scelta è stata invece quella di sollecitare attraverso l'idea di libertà queste giovani donne a valorizzare se stesse e le proprie compagne, a rompere con la percezione indotta dalla propria debolezza, che è l'altra faccia della forza del bullo, e soprattutto a non delegare all'istituzione scolastica né ad altri e a adulti la risoluzione del loro problema, scegliendo invece di cercare insieme gli strumenti per affrontarlo e gestirlo collettivamente tra pari. Il mio intervento partiva dall'assunto che la sicurezza delle donne stia in un cambiamento che rompa col paternalismo e alimenti la solidarietà e l'autonomia femminili, ne valorizzi le capacità creative e reattive. Un cambiamento che non può che partire dalle donne stesse. Si era dovuto però presentare alla scuola questo mio intervento come un breve ciclo di incontri sul genere, mascherandone il reale obiettivo. Con l'amico insegnante eravamo infatti consapevoli che se fossero state rese note le ragioni reali della mia presenza in aula, io non sarei stata accettata dall'istituzione, che avrebbe sicuramente preferito rivolgersi ad assistenti sociali o psicologi. E lo studente bullo sarebbe diventato un caso da affrontare in maniera disciplinare, tanto più in quanto immigrato, acuendo la sua condizione di disagio. Quando per affrontare questo genere di situazioni la scuola prende provvedimenti autoritari, nella gran parte dei casi ottiene l'effetto opposto. Da una parte si incancrenisce la situazione esasperandola e al contempo non alimenta in alcun modo il senso di autonomia e autodeterminazione delle studentesse e degli studenti nell'affrontare le difficoltà quotidiane. Fra poco avremo in linea, adesso proverò a chiamarla, una delle studentesse del Vittoria Colonna, che è stata con noi in questo incontro ieri e che ci racconterà un attimo che cosa ha provato, che cosa ha sentito, come l'ha vissuta. Adesso cercheremo di collegarci con lei. Abbiate un po' di pazienza prima del collegamento telefonico. Pronto? Ci sei? Bene, ciao. Sì, sì. Allora, ciao. Siamo collegati con una studentessa del Vittoria Colonna che ha incontrato ieri le compagne della coordinamenta. Ciao, siamo contente di averti qua e volevamo chiederti un po' di cose sull'incontro di ieri. Prima di tutto, che cosa hai provato? Che cosa è stato per te? E se è stato importante o meno, che cosa ti ha lasciato, le tue impressioni, insomma. Allora, secondo me è stato molto interessante avere un incontro del genere in una scuola mia, in quanto molti ragazzi non avevano mai sentito parlare di violenza sulle donne, e se ne avevano sentito parlare era semplicemente stata casi di cronaca, tipo violenza fisica estrema. E mentre si è riuscita a parlare anche di cos'è la violenza sulle donne, una cosa che a me ha colpito molto sono ragazzi e ragazze che forse per la prima volta si sono resi conto che negli insulti che vengono magari rivolti anche giocosamente, anche goliardicamente, c'è sempre una fortissima componente sessista. Certo, anche nel linguaggio, insomma. Esatto, sì, nel linguaggio proprio comune. Ho visto molte facce stupite anche del fatto di rendersi conto che poi questa violenza psicologica c'è sempre. E non è solamente un caso eccezionale che capita una volta ogni chissà quanto. E sì, questo mi ha colpito molto. Sì, perché molto spesso, appunto, come hai detto tu, anche quello che propagandano poi in effetti i media, no? Quello che si legge sui giornali, esatto, sì, sono sì, tutti gli episodi eccezionali, o comunque gli episodi proprio limite, o comunque eclatanti, o comunque quelli che colpiscono di più l'opinione pubblica, no? Esatto, episodi che si ha l'impressione che non siano parte integrante della nostra vita, quindi che siano qualcosa di molto lontano, di remoto, che non ci riguarderà mai, che non proprio è una cosa altra. Mentre invece quello che secondo me si è riuscito a tenere ieri è proprio il fatto di rendere dare una consapevolezza minima, anche iniziale, che questo problema esiste, è reale, non è una fantasia, non è una cosa che riguarda altre persone di altri posti. Certo. Non so se stavi ascoltando prima la trasmissione, ma stavamo parlando di un episodio che ci aveva raccontato una compagna quando abbiamo fatto un incontro nazionale proprio sulla violenza sulle donne. Questa compagna ci aveva raccontato di un caso che era successo in una scuola, per cui c'erano degli episodi di bullismo, e che invece di rivolgersi agli psicologi, agli assistenti sociali, a tutto questo personale della scuola che poi di solito risolve le cose in maniera repressiva, no? E loro avevano provato a fare degli incontri con le ragazze, con le studentesse, e a trovare dei meccanismi di difesa e di autodifesa all'interno di loro, per esempio anche il modo di porsi, il modo di usare la voce, il modo di porsi nei confronti dell'altro, no? Che sono tutte cose che lì per lì ti sembrano delle sciocchezze, invece le donne sono sempre state educate a un atteggiamento, prima ancora che a parole o che a un atteggiamento remissivo, a tenere gli occhi bassi, a non rispondere. Sì, infatti, esatto, ieri parlavamo anche, non so, di una cosa banale, cioè di quando si fa una discussione in gruppo, un'assemblea o semplicemente una discussione, il fatto che talvolta magari è difficile per una donna imporsi quando i toni sono più accesi e qualcuno alza la voce, il fatto di invece far sentire la propria idea e imporsi anche alle donne e superare appunto questa cosa di essere remissivi, un po' più si potrebbe dire timidi, certo, e invece lanciarsi nella discussione. Sì, più, sì. Infatti guarda, ti racconto una cosa, dato che c'è anche una cosa che ci interessava abbastanza, era anche uno scambio generazionale, perché di solito no, le generazioni poi non si parlano, non si incontrano. Io mi ricordo che ai miei tempi una delle cose più difficili per le ragazze era proprio prendere voce nelle assemblee, e quando nelle assemblee una ragazza prendeva voce e doveva essere 100 volte più brava di un maschio per farsi ascoltare, e quindi doveva essere molto più determinata. È ancora così secondo te o no? Secondo me è meno così, però cioè è più una roba personale che tra virgolette dell'assemblea. Cioè ci sono le ragazze che magari più difficilmente trovano diciamo il coraggio oppure la volontà di intervenire in un'assemblea. Poi una volta che stanno parlando non c'è la differenza, appunto la donna deve essere molto più consapevole, ma c'è più il fatto che una ragazza di 16-17 anni spesso è meno coraggiosa, non è coraggiosa, è più influenzata dal fatto che deve stare un po' più zitta così, e interviene di meno, meno magari anche impulsivamente. Certo, sì, sì, sì. Deve essere più appunto una cosa personale che dell'assemblea, che se una donna parla deve essere più, certo, consapevole. Una sensazione personale. Senti, ma c'erano anche i maschi ieri degli studenti, oltre sì, alle studentesse? Sì, sì. Sì. E come hanno reagito loro? All'inizio, vabbè, c'erano due ragazzi che sono stati zitti tutto il tempo e guardavano, diciamo, però sembravano molto interessati, perché poi a un certo punto un po' di gente se n'è andata, e comunque è durato parecchio. Certo. E quindi un po' di gente un po' se n'è andata, invece loro due sono rimasti fino alla fine e guardavano, erano molto interessati, però appunto si sentivano in minoranza schiacciarsi. Ho capito, va bene. Erano un po' intimoriti da tutte queste donne. Senti, va bene, allora noi speriamo. Ah, e poi avete qualche cosa che vorreste sviscerare ancora di più, che vi farebbe piacere discutere ancora con noi? Perché magari, se vi va, se siete di questo avviso, potreste anche venire un giorno qui in radio e venire a parlare direttamente, se vi va. Sarebbe interessante, poi vediamo, comunque domani finiamo l'occupazione e vedremo come andrà anche. Va bene, allora, tutto, però potrebbe essere interessante. Allora, in bocca al lupo, grazie, alla prossima, sì, e speriamo di vedervi, grazie, presto. Ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao. Ringraziamo moltissimo Emma di questo intervento, perché riteniamo appunto molto importante questo confronto, il confronto generazionale, e riteniamo... No, c'è stato qualche cosa al microfono sbagliato, ho fatto qualcosa di sbagliato. Comunque volevo ringraziare tantissimo la studentessa del Vittoria Colonna e speriamo di averle presto qui con noi, perché così ci raccontano come sono andate avanti, che cosa hanno cioè che riflessioni sono venute fuori poi come conseguenza di questo incontro. Anche perché una cosa molto importante che vorremmo, un dibattito molto importante che vorremmo aprire nella scuola, nell'incontro con le studentesse, è proprio quello di un approccio alla violenza contro le donne non vittimista ma reattivo. Sorrisi di carta regalano scrigni dorati, stroboscopici soli irradiano lame ghiacciate, fuochi riflessi nei cieli appannati, gesto e sorriso di rompe. Questa della vittimizzazione è un'arma molto forte che ha il sistema nei nostri confronti. È una delle manifestazioni più eclatanti della vittimizzazione, è la tendenza, cioè la spinta, il spingerci alla delega, quindi al non trovare in noi stesse le risorse per reagire, ma a delegare sempre a qualcuno o a qualcosa la nostra difesa. A parte il fatto che questo è un tentativo di strumentalizzazione molto anche esplicito per introdurre come al solito leggi securitarie oppure meccanismi di controllo sociale, però non è solo questo, è proprio un atteggiamento che questo sistema in particolare ha nei confronti di tutti i subalterni: la colpevolizzazione, la vittimizzazione, e attraverso questi due meccanismi che applica anche nei confronti dei paesi del terzo mondo con le guerre neocoloniali, cioè uno spostamento ma il meccanismo è sempre lo stesso, crea una dipendenza, una subalternità e quindi una situazione continua di inferiorità e mai una capacità di reazione e una presa di coscienza. La seconda parte della trasmissione è dedicata a Dennis. Dennis tiene tutti gli ultimi mercoledì del mese all'interno dei nomi delle cose una rubrica che si chiama Quelle che non hanno il genere ma hanno la classe, e ci ha mandato un contributo che si chiama Transfobia. Una veglia non è abbastanza. E dice: un po' di giorni fa ho deciso di partecipare insieme ad un amico al mio primo Transgender Day of Remembrance. Nella mia vita mi è capitato diverse volte di partecipare a manifestazioni e commemorazioni per ricordare in onore di e via dicendo, e la sensazione è stata sempre più o meno di tenere in mano un bel pacchetto regalo di rabbia, infiocchettata con senso di impotenza, con tanto di bigliettino allegato contenente aperto disprezzo per chi, nelle circostanze in questione, avesse osato sfoggiare un sorriso. Con un sottile margine di tolleranza per i sorrisi nervosi, così per non disprezzare proprio tutti. Questa volta no, e non ci trovo nulla di particolarmente strano. Per quelle e quelli come noi l'incazzatura è quotidianità, e personalmente mi incazzo così spesso che una volta l'anno credo di essermi preso la licenza di non sentirmi in dovere di farlo. Ogni tanto è bene che se ne occupi qualcun altro. Non intendo certamente dire che di queste persone morte suicide o morte ammazzate non mi importa niente affatto. La rabbia di cui mi parlo è qualcosa che mi tappa la vena, e questo succede ogni volta che apro un articolo del solito giornalista da due spicci bucati che declina una donna trans al maschile. Quando sono sulla metro e sento imbecilli prendere in giro qualcuno dalla presentazione di genere androgina, tutte le volte che c'è chi fa misgendering, ovvero sbagli i pronomi di una persona trans, e tutte quelle violenze e microaggressioni presenti in una gamma pressoché illimitata di situazioni assortite. In strada, a scuola, al lavoro, nella ricerca di un impiego, praticamente quasi sempre, quasi ovunque. Quello che mi piacerebbe dire è questo: con quale ipocrisia sfilze di attivisti partecipano a questa giornata? Con che coraggio tanti prendono le distanze dalla transfobia un giorno all'anno, quasi a fare ammenda per i restanti 360 giorni di passività? Non basta, no, non basta assolutamente. A maggior ragione se quegli stessi attivisti in separata sede lamentano la scarsità di partecipazione trans alle loro attività, non rendendosi conto né del maggiore stigma presente sulla popolazione trans, né delle maggiori difficoltà di una persona trans a intraprendere un percorso militante per molti motivi, ad esempio un livello di disoccupazione preoccupante, nonché la necessità di mantenere un lavoro quando lo si ha, e la discriminazione transfobica all'interno della stessa comunità LGBTQA+. In che misura è possibile pensare a collettivizzare i propri sforzi se non ce la si fa a tenere in piede neanche se stessi? Me lo chiedo. La morte di tutte queste persone mi rende furioso. Con tutte le fiammelle del candlelight vorrei mettere a ferro e fuoco la città. Quando ci picchiano, ci fanno del male, ci uccidono, ci stuprano, ci minacciano, io voglio la lotta, voglio vendetta, voglio urlare fino a rimanere senza voce. Ci tengo troppo a tutte e tutti noi per reputare lo stare in un silenzio ad una veglia qualcosa di sufficiente. Non voglio ricordare i miei morti col dolore, voglio che il periodo in cui sono stati in vita non sia vano, e voglio lottare affinché i vivi rimangano tali. Troppi di noi sanno cos'è la depressione, hanno pensato almeno una volta al suicidio o l'hanno tentato. Soffrono transfobia interiorizzata e non considerano la propria come una condizione esistenziale, bensì una malattia. Io voglio promettere a ogni persona transessuale e transgender che l'esistenza piena di miserie che ci è riservata non è né meritata né ineluttabile, e che insieme possiamo distruggerla. Che la sofferenza è privata, ma il privato è sociale e il sociale è privato. Non voglio sottovalutare l'importanza del ricordo, ma la memoria è qualcosa di più del ricordo, e rendergli giustizia, e non legalità, ma giustizia sociale. Io voglio che si arrivi ad un giorno in cui non bisognerà più preoccuparci per la sicurezza, e in cui non ci servirà mai più abituarci all'idea di dover essere pronti a difenderci da qualcuno ogni volta che usciamo di casa. Ma finché quel giorno non arriverà, terrò il coltello fra i denti. Ma non lo desidero quel giorno, lo pretendo. Yeah. Dal contributo di Dennis è estremamente evidente quanto nessun ambito sia slegato da un altro, quanto le lotte non possano essere settoriali, quanto le lotte categoriali non portino da nessuna parte, quanto si debba trovare il filo rosso che unisce tutte le situazioni di ribellione, di alterità a questa società. Proprio a questo proposito, che le lotte non devono essere mai categoriali e settoriali, e che bisogna riportarle unità e trovare il filo rosso che le lega, leggiamo un appello in chiusura di trasmissione che riteniamo importantissimo e che viene dalla sezione femminile Nuovi Giunti del carcere di Torino. Abbiamo fatto per due puntate un approfondimento sulla detenzione femminile, e questi approfondimenti ci hanno svelato un mondo che conoscevamo in linea di massima, ma che svelarlo in maniera così eclatante ci ha fatto perfino male, cioè il fatto che le donne siano sottoposte a una serie di meccanismi di controllo e repressivi sociali e nelle carceri ancora più forti, e che le donne subiscano fin da piccole dei condizionamenti tali che le portano a rifiutare addirittura la trasgressione della norma perché si auto censurano, si autocontrollano, e che le donne che escono dalla norma sono nella maggioranza maggior parte dei casi considerate non tanto delinquenti ma pazze, è una cosa che ci fa particolarmente male. E sappiamo anche quanto le donne all'interno delle situazioni carcerarie soffrano doppiamente, perché si autocolpevolizzano anche per aver portato danni alla famiglia, essere state costrette a lasciarla, a lasciare i figli, e quindi tutte queste cose si sommano e portano a una sofferenza molto più forte nella popolazione carceraria femminile. Detto questo, leggiamo la lettera proposta dalla sezione femminile ai nuovi giunti del carcere di Torino. Questa lettera arriva dalla seconda sezione nuovi giunti femminili dal carcere delle Vallette. Racconta le condizioni a cui sono costrette queste detenute. È un episodio drammatico che hanno vissuto, censurato dall'amministrazione penitenziaria. Con coraggio e collettivamente propongono un momento di lotta per il 4 dicembre prossimo, questo 4 dicembre, a cui è doveroso dare voce. È importante diffonderla il più possibile tra gli uomini e le donne detenute in altre strutture carcerarie. A margine della lettera viene specificato che la loro protesta non è per chiedere l'amnistia o l'indulto, ma per ottenere qualcosa di molto più vicino alle loro necessità e potenzialità di auto-organizzazione: lottare per la propria dignità e contro la quotidianità assassina che sono costrette a subire. Vallette, 4/11/2013. Mi trovo tutt'oggi ancora ai nuovi giunti. Sono stata trasferita il 22 luglio. Io, come altre detenute, siamo al livello di non ritorno dalla quasi pazzia. In teoria, nei nuovi giunti puoi starci massimo 15 giorni. Dopo svariati mesi da una petizione, siamo riusciti a ottenere uno sgabello per cella. Poter fare l'aria a uno stesso orario e non come pecore da pascolo o tappabuchi quando le altre sezioni non scendono. Questo era un disagio non da poco. Una mattina alle 9, il giorno dopo alle 11, come veniva comodo a loro, e a quell'ora d'aria era diventata una corsa per poter essere pronta all'improvviso. Questa situazione è da sempre insostenibile: 2 ore d'aria e 22 chiuse senza la possibilità di fare un'attività ricreativa. C'è una bellissima palestra inagibile. Abbiamo ottenuto di poter usufruire della doccia dalle 9 alle 11, orario in cui devi essere già pronta per la così sospirata ora d'aria. Alle 11 passa il vitto. Bene, noi al nostro ritorno dall'aria alle 12 abbiamo nei piatti qualcosa di commestibile, di cui non si capisce la fattispecie, messa a giacere per un'ora fino al nostro ritorno in cella. Prima cosa, non mi sembra molto corretto e igienico che io debba avere il vitto per un'ora dentro la cella senza neppure vedere cosa mi ci si mette dentro. Io personalmente ho un piccolo aiuto dall'esterno e vado avanti da più di 3 mesi a yogurt e frutta. Ma chi non ha la possibilità di fare quel minimo di spesa si fa coraggio, chiude gli occhi e butta giù. Le mie compagne mangiano degli alimenti con corpi estranei all'interno. Poi c'è il lusso della doccia dalle 13 alle 15. Alle 15 bisogna essere pronte per l'aria. Quindi in una sezione dove ora siamo 25 ma spesso si è in 50, con 2 docce funzionanti e un lavabo, bisogna fare coincidere tutto. Voglio puntualizzare che nelle celle non c'è proprio la predisposizione per l'acqua calda, a differenza delle docce, dove c'è un termostato per la temperatura ma a piacimento loro. Quello che potrebbe essere un piccolo ritaglio di relax diventa una vera e propria tortura per molte, direi quasi tutte. La temperatura priva di calore rende insostenibile il nostro livello di stabilità. Io personalmente faccio comunque la doccia, seppure con la speranza che non mi si geli il cervello, ma le mie compagne sono tutte comunque di un'età sulla cinquantina, anche oltre, puoi capire.